E sto un gocca, annanza stu computer. Sul rinta stanza mi con manus conosciuto. E sto cercando e scrivo qualcosa di compiuto. Ra gente che è rimasta e che la casa ne è giunta. E che la capanzata a me non me ne fotte. Una calamaia capantera diventa più forte. Son canu cacciatore mezza sti sciacal. Che prima te ranno bene poi te colpisce ne spalle. Da capire sono molto complicato. Ho giocato coi miei sogni all'impiccato. E quindi vado e non cado, sai che ti faccio il culo se poi parto in italiano. Fra, sto scrivendo ciò che pensi in questo testo. Sono stanco anche di dirti che sono depresso. Mi presento, io sono quell'apatico. Quello stronzo che non dà consigli e diventa antipatico. Credo che non sarò più lo stesso. Credo che non sarò più me stesso. Le cose accadono, ti travolgono e ti cambiano. Vorrei spiccare il volo come fossi un angelo. Credo che non sarò più lo stesso. Credo che non sarò più me stesso. Le cose accadono, ti travolgono e ti cambiano. Vorrei spiccare il volo come fossi un angelo. Ho una frenesia che prende forma lentamente. Voglio tutto e subito, ma dubito di riuscirci seriamente. La mia vita è una poesia da leggere attentamente. Per comprendere che la mia calma è apparenza. Vita disordinata, vivo la sfida di ogni giornata. Una partita contro me stesso. Per il progresso di ogni frazione di tempo passata buttata nel cesso. Rivoluzione che nel complesso va spronata. Ogni giorno più spesso con un'azione ideata. È il mio cervello che mi comanda. Ogni risposta nel bordello di ogni domanda proposta da chi ha dalla parte del manico il coltello. Io mi ribello, niente mi costa, il valore spello. E quando mi vede lui che si sposta nessuno ci crede. E vedi, e questo è bello. Sudo 7 felpe ogni giorno, non le capisce. Se mi guardo intorno ogni cicatrice si rimargina. Se volto pagina risorgo come l'araba fenice. Torno in superficie ma nessuno se lo immagina. Credo che non sarò più lo stesso. Credo che non sarò più me stesso. Le cose accadono, ti travolgono e ti cambiano. Vorrei spiccare il volo come fossi un angelo. Credo che non sarò più lo stesso. Credo che non sarò più me stesso. Le cose accadono, ti travolgono e ti cambiano. Vorrei spiccare il volo come fossi un angelo.